cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Sara vuol dire principessa. Questo è il titolo dell'ultimo romanzo di Violetta Bellocchio pubblicato da Marsilio. Potremmo definirlo un romanzo di formazione, ma è un romanzo che ha diversi spunti interessanti su cui riflettere. La protagonista è una ragazzina, Sara, che ha 15 anni, vive in un paesino nella provincia di Piacenza, ha un carattere indipendente, insomma, vuole andar via da quel suo piccolo contesto che sembra opprimerla e si trasferisce appunto a soli 15 anni, quindi ancora minorenne, a Milano. Siamo nel 1983. Violetta, prima ancora di parlare di tutta la storia, di tutte le vicende che accadono a Sara, perché hai deciso di ambientare questa storia negli anni Ottanta? Guarda, ti rispondo nella maniera più sincera possibile perché io funziono così. Il mio ultimo libro era un memoir, si chiamava Il corpo non dimentica ed era la mia storia. Nel momento in cui ho deciso di tornare alla fiction ho detto va bene, deve essere qualcosa che è molto lontano da me. Quindi lo ambiento nel passato prossimo, il personaggio non deve avere in apparenza niente a che fare con me, non ci deve essere l'ombra dell'autobiografia che va a stendersi su questa storia di finzione. Quindi mi sono proprio abbandonata al potere della pura immaginazione. Poi naturalmente, siccome io me le butto, ho scritto un personaggio che non c'entrava niente con me come ero stata da adolescente, una storia ambientata nel passato prossimo, e mi sono ritrovata io, dopo averlo finito, a attraversare gli stessi stati d'animo della protagonista. Quindi ho parlato del passato prossimo, ma in qualche misura ho scritto il mio futuro. Ma che interessante questa visione. Tu dici che appunto Sara è una ragazza molto diversa, ha vissuto un'adolescenza molto diversa dalla tua. Sara, dicevamo, è una ragazzina indipendente che ha voglia di novità, ha voglia di essere forse anche qualcun altro, qualcos'altro. Mm-hmm. Arriva a Milano dove si fa affascinare da questo Antonio, detto Tony, che è un, diciamo, conduttore radiotelevisivo, un DJ, insomma una persona che fa anche un po' il pigmalione, riesce a lanciare professionalmente delle persone. Qual è il loro tipo di rapporto? È un rapporto fra appunto un uomo di potere e una ragazzina così sprovveduta o no? Io credo di sapere delle cose su questo romanzo perché l'ho scritto io, però poi parecchie cose che succedono nel libro sono stata molto attenta a presentarle al lettore, a lasciare che poi il lettore si facesse una sua opinione e si facesse anche un suo film rispetto alla storia che io ho raccontato. Noi seguiamo tutto dal punto di vista di Sara, che, come dici tu, è molto indipendente, è la creatura più saggia e più selvaggia su cui a me sia mai capitato di lavorare. Io, a me toglieva il fiato di tanto in tanto guardare il mondo attraverso i suoi occhi. Sara sicuramente è affascinata dal potere di Antonio, non vuole necessariamente diventare famosa. Sara scappa di casa dicendo: se io riesco per un attimo a incrociare questo tizio, se lui mi vede, in qualche misura la mia vita cambierà e io diventerò qualcos'altro, qualcun altro. È fortuna che poi lei ci riesca. Quello che lei vede in lui è un'opportunità, però ripeto, non di diventare famosa o di avere successo, è un'opportunità di trasformarsi, di passare da una ragazzina di provincia a cui non è mai stato detto che era intelligente, che andava malissimo a scuola, che apparentemente non ha niente da giocarsi a parte la bellezza e la giovinezza estrema, per diventare qualcos'altro, per diventare, come poi le succede, una cantante, anche se lei non ha nessuna abilità musicale, viene istruita per diventare un personaggio nella musicale all'interno della scena disco italiana dei primi anni Ottanta. La voce ce la mette qualcun'altra e lei però prova un grande piacere nel seguire le istruzioni che Antonio le ha dato. Infatti c'è proprio un momento in cui lei riceve questa lettera in cui le viene scritto: tu adesso ti chiami Roxana, hai 18 anni, sei di Milano, il primo ricordo che hai era un ricordo sulla musica, sei innamorata di John Taylor, di Duran Duran, eccetera. Cioè, questo Antonio le aveva dato proprio tutti i paletti, tutte le dritte sulla persona che lei doveva essere, quindi in qualche modo interpretava un ruolo, ma le piaceva interpretare questo ruolo. Io credo che Sara sia molto orgogliosa di saper fare le cose, quindi sicuramente per una buona fase del romanzo lei è contenta di diventare un'altra e di interpretare questo personaggio, che peraltro è lontanissimo da lei, perché la visione di Antonio è quella di prendere questa ragazzina semiselvatica, che sì, è bella, però è anche tutta istinto, tutta natura, e adagiarla nel personaggio della principessina vestita di colori metallici che piace ai grandi e ai bambini e che si ritrova poi ad avere un grandissimo seguito proprio tra i bambini, anche se è prodotta come un personaggio musicale che deve piacere un po' a tutti. Sara sicuramente è orgogliosa di imparare a fare le cose, proprio perché non ha mai saputo fare niente e perché è ancora piccolissima. ha una forma di orgoglio, le viene detto che cosa fare, lei fa il compito e le viene poi detto brava, le viene detto stai andando bene e quindi lei è felice di diventare qualcun altro, ma è anche felice di saper fare qualcosa, anche se poi queste cose magari a me e a te possono sembrare piccole, fatue e molto banali. Impara a fare il playback ed è felicissima, impara a posare per fare un servizio fotografico e dice oh finalmente ho trovato il mio posto, adesso mi stanno regalando una vita completamente nuova e per continuare ad averla io devo soltanto fare quello che mi viene detto di fare. Fra Sara e Antonio inizia anche una relazione d'amore, mm-hmm. di passione, io sono tua, tu sei mio e viceversa. C'è una differenza di età, chiaramente, abbiamo detto lui è un po' il talent scout, quindi quello che la lancia in questo mondo della musica. Quindi questo è un cliché che abbiamo già visto in altra letteratura. Però tu hai deciso di raccontare questa storia dal punto di vista della ragazzina. Questo cosa fa? Ribalta un po' i piani, cioè alla fine emerge quasi che il potere non è tutto dalla parte di Antonio, forse anche un po' dalla parte di Sara. Guarda, la loro relazione mentre io la scrivevo mi disturbava a tratti perché io sono un'adulta e quindi vedevo perfettamente che alcune dinamiche che entrano in gioco sono dinamiche manipolatorie. Veniva assolutamente. C'è un adulto che ha tutto il potere. Oppure no, Sara però non è una vittima, non è una ragazzina ingenua, è una che si rende conto che la sua carta da giocare può anche essere la sessualità e può essere il piacere di avere un corpo, di essere trovata bella e di sedurre. Per quello che riguarda me, se io devo dire qualcosa che sono un'adulta, io ero disturbata da quello che stavo scrivendo, però allo stesso tempo dicevo se io non lo rendo vero e se io soprattutto non sposo il punto di vista di lei sto scrivendo una storiella banale sulle ragazzine che si fanno travolgere dalla passione per gli adulti. Il loro rapporto era assolutamente elettrico, era ambiguo e ho lasciato spazio anche perché poi qualcuno mettendosi nei panni di Sara potesse attraversare anche questa parte della sua storia con un'immedesimazione e potesse capire che cosa si prova anche a suscitare un certo tipo di attenzione. Naturalmente non entriamo troppo nei particolari della trama, diciamo che a un certo punto Sara farà un tour, ritornerà, insomma la loro relazione avrà degli scossoni notevoli e quindi poi ognuno farà una riflessione su di sé. Ma qual è il punto principale della riflessione che Sara fa su se stessa? Perché questo è un po' un romanzo in cui seguiamo la crescita emotiva, psicologica, sociale di questa ragazzina. Quando ho cominciato a scrivere Sara, io sapevo essenzialmente tre cose. Che lei era stata famosa per una parte della sua vita breve ma intensa, che lei non era più stata famosa a un certo punto e che passando attraverso questo mondo lei era cambiata completamente e che quindi qui e ora nel nostro presente lei aveva una vita che non c'entrava più niente con quel modo di fare spettacolo o con quel modo di fare musica, però proprio il fatto di aver avuto esperienza di quel pezzetto di mondo l'aveva trasformata completamente. Se Sara non si fosse mai buttata in questa avventura sarebbe rimasta una che forse non riusciva nemmeno a trovare un supermercato che la prendeva per fare la commessa. Proprio accettando di diventare un'altra, Sara ha trovato una scintilla di vero sé. Il titolo Mi chiamo Sara vuol dire principessa è una frase insomma che ritorna diverse volte nel romanzo. A un certo punto proprio all'inizio del libro c'è invece una persona che le dice guarda che Sara vuol dire signora in ebraico, non vuol dire principessa. Ora al di là di questo fraintendimento, se l'hai messo nel titolo e se è una frase che ritorna vuol dire che per Sara questa cosa per il tuo personaggio è importante. Perché è così importante determinare la sua identità da principessa? Sara dice, pensa di dire presentandosi ad Antonio, mi chiamo Sara, vuol dire principessa, perché non sa cos'altro dire, è apparentemente preparatissima a lanciarsi e ad avere un incontro che le cambia la vita e poi quando si trova finalmente a avere l'attenzione di un incontro desiderato non sa assolutamente cosa dire di sé, non sa come vendersi, non sa come presentarsi e viene immediatamente zittita dicendo no carina, non vuol dire principessa, non parlare di cose che non conosci. Non parlare di cose che non conosci, ma questo vuol dire che Sara ha voglia di sentirsi principessa o che si sente principessa? Io credo che Sara si senta principessa, poi essere una principessina, essere una bambolina, essere un piccolo oggetto pronto per il consumo degli altri può essere molto divertente per una certa fase della propria esperienza, ma diventa incredibilmente limitante. Allo stesso tempo Sara sembra una principessina ma non lo è affatto, non dico che sia un maschiaccio perché non lo è, ma è una creatura di istinto, è una creatura che prova emozioni molto profonde e che si mette in riferimento al mondo principalmente in termini di quello che vede, di quello che sente, di quello che prova fisicamente. fisicamente, quindi è quello di più lontano da una principessa tradizionale che ci si può immaginare. Sara sicuramente vive molte emozioni forti, vive anche di passioni, di sentimenti. Tu all'inizio dell'intervista hai detto che hai voluto distanziarti, diciamo, dal meccanismo del memoir, perché con Il corpo non dimentica avevi raccontato la tua storia di alcolista, di ex alcolista adesso, e che quindi avevi voluto mettere la fiction fra te narrante e personaggi. Però in questo miscuglio di sentimenti così forte non c'è anche un po' una parte della tua vita o no? Diciamo le cose come stanno. Io ho scritto il romanzo in uno stato di identificazione con Sara totale, perché ho detto l'unico modo in cui questa storia funziona, proprio perché va a rompere una serie di luoghi comuni, è io ci devo stare dentro al 100%, io devo vivere tutto quello che vive lei, perché altrimenti non riesco a restituirlo con una realtà minima, altrimenti io non ce la faccio, altrimenti è una storiella. Invece, portando anche il lettore a sposare il punto di vista di Sara, dico, oh, ti faccio capire che cosa si prova attraverso determinate stanze, a avere addosso il peso di determinati sguardi, a vivere poi un conflitto tra come si è veramente e come ti viene chiesto di diventare. Ma ci sono dei pezzettini di questo libro che parlano di me con una chiarezza spaventosa e sono arrivati da soli, da un certo punto di vista. Ecco, l'aver raccontato in Il corpo non dimentica proprio la tua storia e l'averlo dichiarato, perché un autore può scrivere di sé senza dire che si tratta di un memoir, eccetera. Ti ha dato la sensazione adesso a posteriori di esserti un po' scoperta troppo, di aver lasciato un nervo scoperto? Dici, bah, forse era meglio se non avessi scritto proprio tutto? Questa è un'ottima domanda, ci ho riflettuto molto anche di recente. Ma io non sono pentita del corpo, comunque, nel senso, il corpo doveva venire fuori così. Certo, è stato un libro scritto in uno stato di incoscienza clamoroso, senza preoccuparmi di quello, di come sarebbe cambiata la mia vita dopo la pubblicazione. Io sono molto felice di come è venuto quel memoir, sono anche assolutamente sicura che prima o poi mi rimetterò a scrivere non fiction, però non potevo farlo adesso, non potevo tirare fuori un libro che fosse gli avanzi di lavorazione del corpo o altre storielle della mia vita che non vi ho raccontato al primo giro. Però quella è un'esperienza che mi ha trasformato la vita completamente, perché mi ha anche permesso di trovare comunque un pochino una voce come scrittrice o di appropriarmi dell'uso del linguaggio e delle parole con una proprietà che prima non avevo e che forse non avrei mai trovato se non avessi deciso di raccontare me stessa. Quindi nessun rimpianto, certo di tanto in tanto mi guardo intorno e dico, ma l'ho scritto veramente io? Grazie Violetta Bellocchio, ora in libreria con il romanzo Mi chiamo Sara, vuol dire principessa, pubblicato da Marsilio. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Negli ultimi anni vediamo sempre più spesso in classifica libri scritti da veramente giovanissimi, diventati famosi facendo per esempio video pubblicati su YouTube. Insomma, fra questi youtuber scrittori c'è anche Marco Leonardi, però è un caso leggermente diverso dagli altri. Lui ha 16 anni, è siciliano, è molto seguito sui social, quasi 600.000 follower su Instagram, 350.000 su Facebook, più di 180.000 sul suo canale YouTube. Ha scritto il libro Il web mi ha tolto dalla strada, pubblicato da Mondadori. In questo libro, che è una sorta di memoir, racconta la sua vita da figlio di un boss mafioso. Suo padre, infatti, è in carcere con l'accusa di associazione mafiosa. Marco Leonardi è passato dunque da un'infanzia dorata, fatta di vestiti firmati e vacanze in resort di lusso, ad un'adolescenza piuttosto problematica. Nel libro lui spiega: pensando al passato, il web mi ha tolto davvero dalla strada, perché è stato un modo per distrarmi dai problemi della mia famiglia. E poi aggiunge, la mia storia non c'entra niente con gli altri youtuber. Nella mia vita ho vissuto cose che un ragazzo non dovrebbe mai vedere. Adesso ve le racconto e vi dico come ho cercato di capirle. E allora sentiamo dalla voce di Marco Leonardi perché ha deciso di scrivere questo libro. Questa storia, ti dico, non è mai stata in progetto di essere raccontata a qualcuno, erano degli sfogli miei personali scritti nelle note del mio cellulare, che poi scrivendo si è trasformato nel il web mi ha tolto dalla strada. Ti faccio tipo un esempio, l'ultima volta che arrestarono mio padre, lo arrestarono davanti tutti i miei compagni di classe. Quella sera lì stavo malissimo, sono tornato a casa, l'avevano arrestato davanti a tutti i miei compagni di classe, se lo sono portati e da quella volta fino ad oggi è ancora in carcere. Da quella sera lì appunto ho scritto tantissime cose che si trovano appunto dentro il mio libro È nato così dagli sfoghi miei personali. Ancora oggi non mi capacito di sta cosa, che degli sfoghi personali miei possono interessare a qualcuno. Quindi non è mai stato in progetto, non era una mia idea fare un libro, però poi mi è arrivato una proposta dalla mia agenzia attiva di fare un libro con Mondadori. Ho detto: io ho già il lavoro avanti, allora accettiamola e vediamo come va. È nato così. Tu racconti appunto di quando vivevi con i vestiti firmati, insomma vivevi in un ambiente dorato. Come è cambiata poi la tua vita proprio quotidiana nel momento in cui tuo padre è finito in carcere? Allora, mi sono trovato da piccolo ad avere tutto, diciamo. Mio padre non ci ha fatto mai mancare nulla. Poi è arrivato il giorno in cui lo arrestarono la prima volta, è uscito la seconda volta, l'hanno riarrestato e da lì è iniziata un po' la vita, diciamo, in discesa. E tutti gli risparmi che noi avevamo da parte se ne sono andati comunque per avvocati e cose varie. E poi mi sono ritrovato appunto a non avere più nulla e a ricostruirmi col web. È nato tutto così, tra i banchi di scuola ho iniziato a vedere dei mini video di 7 secondi chiamati Vine, che sono dei video appunto di 7 secondi, 6 secondi in cui si fanno scenette comiche e si cerca di strappare un sorriso. Ho detto: va, ci provo e vediamo come va. E da lì è iniziata la scia. Ogni video che... io ti ricordo, addirittura mi ricordo il primo video, lo pubblicai, era una parodia di una bambina che strappava delle foto di Justin Bieber, e quel video lì, il mio primissimo video caricato, è arrivato subito a 70-80 mila views, non voglio sbagliarmi. E ho detto: beh, è andata bene, ci provo, vediamo come va, e da lì è partito tutto. Alla fine del libro dici sostanzialmente anche che la tua vita è stata difficile, dolorosa, insomma, per gli arresti di tuo padre, per quello che hai dovuto vivere, e che quindi hai deciso anche di aprirti e di raccontarla. Qual è la cosa che ti pesa di più? Allora, la cosa che mi fa più soffrire ovviamente è la distanza, la lontananza di un padre che non lo puoi avere accanto. Mio padre mi ha scritto una lettera qualche giorno fa in cui mi scrive che gli sarebbe piaciuto stare con me in tutta questa cosa, queste cose che sto facendo adesso, gli sarebbe piaciuto essere stato con me il 18 aprile, appunto, che è uscito il mio libro. E questa, diciamo, è la cosa che mi fa soffrire di più, non vederlo, non stare con lui, perché comunque adesso sta a Palermo, l'hanno trasferito in un carcere punitivo, e riesco a vederlo una volta ogni due mesi, una volta al mese. Poi un'altra cosa che adesso mi porta peso è il fatto che è arrivata una proposta di legge che vogliono levare i figli ai mafiosi e non farli rivedere più. E secondo me è una cosa sbagliatissima, perché so come si ci sente togliere un figlio a... Ok, il padre sbaglia, è giusto che paghi, ma il figlio secondo me è super super sbagliato, che non c'entra nulla, almeno diamogli la possibilità di vedere il padre, che lui non ha fatto nulla, è innocente, il figlio. Il padre, se uno nella vita sbaglia, paga. Queste due cose sono le cose che, a mio parere, mi fanno più peso adesso, al giorno d'oggi. Che reazioni hanno avuto i tuoi amici, i tuoi compagni? Prima hai detto che uno degli arresti di tuo padre è avvenuto davanti ai tuoi compagni di scuola. Sono stati solidali con te oppure, insomma, hai ricevuto delle cattiverie? No, ci sono state. Allora, il mio ex migliore amico Giuseppe, che ne ho parlato di lui anche nel mio libro, è stato l'unico a scrivermi quella sera, perché lui l'ha visto che si sono portati mio padre davanti ai miei occhi, e poi la sera mi ha scritto: fra, tranquillo, come stai? E non ho risposto a nessuno, stavo proprio malissimo. Come l'hanno presi i miei amici? Amici, ti giuro, ne ho pochi, anzi giù da me in Sicilia ne ho zero, ne ho soltanto uno vero di cui mi posso fidare, che è Marco Dottor, che è lui. Amici in questo periodo ne ho, allora ti dico, da quando ho iniziato ne ho avuti, ne ho conosciuti di nuovi e ne ho persi tantissimi. La maggior parte li ho persi tutti, per alcuni per via di quello che faccio, per la storia di mio padre mi hanno allontanato, alcuni per quello che faccio, non lo so, non gli stava bene, ogni volta che vedevano un video mi prendevano in giro. Però ti dico, io ho sempre seguito la mia strada e sono sempre andato dritto a testa alta e sono andato sempre dritto per la mia strada, non mi sono mai fermato. Il libro si intitola Il web mi ha tolto dalla strada, insomma, in che senso, che tipo di riconoscimento, di gratitudine hai nei confronti del web e di quello che tu fai sul web? Allora, il web mi ha tolto dalla strada perché, guarda, io rifletto sul fatto che il web mi abbia salvato la vita, perché è stato un modo per distrarmi da tutti i problemi di mio padre in carcere, problemi economici in famiglia. Non arrivavamo a fine mese, quindi ho iniziato così per gioco e poi si è trasformato, si è presentato tutto così dal nulla, perché io non me lo aspettavo che pubblicando quel video sarebbe partito tutto. Quindi ancora oggi dico, per me è tutto un mondo da scoprire, è tutto nuovo. Un'ultima domanda, ora sei qui per farti autografare il libro da Saviano, no? Saviano insomma è un simbolo della lotta alla criminalità organizzata, tu invece sei figlio di un uomo che è stato condannato per associazione mafiosa, ecco, come vivi questa dicotomia proprio nella tua vita insomma? Allora, sul fatto che mio padre è in carcere per associazione mafiosa, ti dico, io non so nelle specifiche mio padre cosa ha fatto, perché di queste cose non me ne ha mai parlato, però sono sicuro che mio padre non è una persona cattivissima, ha fatto anche cose buone nella sua vita, ha lavorato, non è soltanto una persona che ha fatto dei crimini. Mio padre, ok, ha fatto quello che ha sbagliato nella sua vita e paga, se ha sbagliato paga, però non so nelle specifiche cosa ha fatto. Io quello che so sono i fatti di cronaca, non so altro. E di cosa ne pensi invece di Saviano, della sua lotta e così via? Saviano io lo seguo da quando pubblicò Gomorra, la prima serie. Su questo punto di vista, con la lotta alla criminalità organizzata, secondo me è un'icona. Oggi sono qui appunto per farmi firmare il libro e per fargli vedere il mio, magari non so, gli dà un'occhiata, perché comunque sono anche un ragazzo vittima della criminalità organizzata e boh, mi piacerebbe gli desse un'occhiata al mio libro. Ecco, tu sei una vittima perché appunto sei figlio di un uomo che è in carcere, ma pensi in futuro di impegnarti nella lotta alla criminalità organizzata, o il fatto già di essere vittima dici vabbè basta così insomma, non voglio dare oltre? Guarda, non ho idea. Non so come la lotta alla criminalità organizzata, guarda, ti dico, mio padre a breve uscirà, 14 mesi e è finito tutto, quindi speriamo cambi vita, si mette la testa a posto e cerchiamo di allontanare questa criminalità organizzata dalla vita mia, da tutta la mia famiglia. Questo era Marco Leonardi, 16 anni, youtuber e autore del libro Il web mi ha tolto dalla strada, pubblicato da Mondadori. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Filippo Aureggi. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri su internet, su radio24.it. E se volete sempre essere aggiornati potete seguirmi su Twitter e su Facebook, il Cacciatore di Libri, _Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.